stai ascoltando Radio Forte. Questo è Centocelle Avengers. Sì. Sì, ho capito. Sì, ho capito. No, le dico che non riesco a navigare. La rete è fuori uso. Sì, attendo. Maledetti vampiri. Sì. Come? Una bolletta non pagata. Sì, sì, ho capito, ho capito. Verificherò col mio coinquilino. Di solito non si dimentica mai. La ringrazio, buona giornata. Fammi vedere qua la posta. Eccala, febbraio 2021, lo sapevo io. Altro che intelligenza artificiale. Quello manco una bolletta è buono a pagare. E pensa che vola pure. Mi sembra di riconoscere un rumore. Qualcuno ha parlato di volare? Ciao Iron Man, proprio te cercavo. Ah sì? E perché? Hai finito le crostatine? Molto divertente. Davvero non hai idea del perché? Non capisco. Tu, omo de latta scordarello, non dovevi pagare l'internet? Cosa? Io? Ah, mo ce senti. Hai capito che la cosa riguarda anche te, le tue seratine e una mamma per amica, oh, sì? No. Che poi fosse solo quello. Qua ormai senza l'internet siamo fottuti. Manco il tostapane so usà. Oddio, c'è una crisi di regresso. Mi manca l'aria. Ma cosa? Ti senti male? Cos'hai? Rispondimi. Buh! Ah, cosa? Sono vivo, sono vivo. Era uno scherzo. Ma tu sei una minchia, Iron Man. Come hai fatto a scordarti? E soprattutto, un dove sei nato che è tutto chiuso? Mi ha portato a fare un giro. Ah, eccola qui. Ciao, Alexa. Un giro, dici? Abbiamo approfittato della città vuota. Iron Man mi ha portato a vedere il cupolone. Carini loro. E pensa che una volta eravamo amici noi tre. Non che ci abbia qualcosa contro il vostro flirt, eh? Però mi è stata diventata un po' troppo. Non lo so, come si dice in binario? Gna gna gna. 010101. Beh, insomma, ditelo, se hanno vinte le macchine e non me ne ero accorto. Non capisco. Posso pagare io la bolletta? Oh, e questa è una buona notizia. Pagamento effettuato. L'abbonamento sarà ripristinato entro 24 ore. Oh, e questa è una tragedia. Oddio, mi sento male. Iron Man, mi sento male. Smettila. No, stavolta è vero. Oh. Non fare così. Niente ha più senso. Sono solo 24 ore. Chiusi in casa. Puoi farcela. Ho cercato di insegnarti. Lasciare un segno. Cosa stai dicendo? Te l'avevo detto o no di scaricarci le serie? Che voi giovani con sta cosa dello streaming non ci avete capito niente. Eravamo meglio noi, coi nostri hard disk esterni pieni come nuovo. CD, DVD, una stanza criogenizzante dove conservare tutto. E passa la paura. Di cosa stai parlando? Invece no, con sta cosa che è tutto online, te tengono per gli zebedei. Ma non mi avranno, non mi avranno. Basta. Io nel materasso c'ho cucite tutte VHS. Non ha senso. Calmati. Sei troppo anni 90. Devi crescere. Tu devi pagare le bollette. Va bene, amici Devices. Io non vi voglio male. Davvero, siete giovani. Come diceva... È pure compito mio darvi giusti stimoli, no? Che vuoi dire? Come possiamo passare il tempo, bambini? Ancora lezioni di musica. Oh no, amico mio. Non te la cavi così. Oh, oh. Proprio così, cara Alexa. Hai capito bene. Ma io non ho detto niente. E io invece ho detto tutto. Ancora una volta useremo il suono e la fantasia. Cosa? Di nuovo? Sei pazzo? Andiamo, amici. Avete presente quando nella serie TV gli si rompe il televisore e cominciano a parlare e raccontare storie? No. Ecco, invece è proprio questo che te voglio dire. il vecchio cliché. C'è una puntata di qualcosa per spiegare ogni situazione della vita, caro Iron Man. Cosa vuoi fare? Grazie alla mia scarsa socialità da bambino, ho tutto qui in testa. Non fare così. E grazie a una scellerata relazione di autori, ci faremo una super maratona di serie TV che Mentana ti dice: oh, basta, vado a dormire. Possiamo immaginare, amici. No. Immaginare capisco. Di presentare i 100 celle Avengers TV Awards. Sì, ehi, ti, ehi. Tutte le serie TV della nostra vita. Ecco, qui ARPA, ARPA. Dai, okay. Quest'ARPA però, ma che ce l'ho? Oh, così, così. Ripeto la battuta, Te lo immagini, Iron Man? Come sarebbe presentare i 100 celle Avengers TV Awards? I CATA. CATA. Grazie, grazie. Siete magnifici! Buonasera e benvenuto, gentile pubblico, alla prima edizione radiofonica dei 100 celle Avengers TV Awards. Con me c'è quel buon tempone di Iron Man. Buonasera. Ma numerosi saranno stasera i conduttori al mio fianco, così come numerosi gli ospiti chiamati a premiare le categorie designate. Sì. Io vi ricordo il canale Telegram t.me/radio40. Ma come parlo? Ok, lo ripetiamo, t.me/radioforte, per radiovotare le vostre serie preferite in gara. E volo a presentare la prima categoria. Così in fretta. Sì, Iron Man, che la serata è lunga, abbiamo ritmi serrati. Andiamo con i telefilm. Come sempre ci piace raccontare le storie dall'inizio, dalla genesi, e quindi questo premio è dedicato a quelli che possiamo considerare i progenitori delle serie TV, che da queste parti si chiamavano appunto telefilm. Ma meglio di me, caro Iron Man, ce lo può raccontare questa voce. Pentole fantastiche in acciaio 1810, sono 15 pezzi, guardate che meraviglia, una batteria completa, mondo a casa, soltanto 579.000 lire per tutte queste pentole. Attenzione che il prezzo è comprensivo di IVA, ma dicevo... Quello, giovane Iron Man, è Giorgio Mastrota. Non te lo faccio ascoltare solo per ricordarti l'importanza di una batteria di pentole o di un cambio Shimano, ma perché so che per me, come per quelli della mia generazione, il solo suono di questa televendita provoca una malinconia, un inspiegabile senso di colpa. Senso di colpa? Perché? Erano le televendite della mattina. Se sentivi quella voce, voleva dire che non eri a scuola. E la tua avventurosa mattinata cominciava così, con i telefilm d'avventura. Dai, che ora tocca a te. Prima di presentare le nomination, infatti, dobbiamo introdurre l'ospite che consegnerà il premio. Un bel applauso al batterista, percussionista, chitarrista e cantante Silly. Grazie. Ringraziamo la 100 celle Avengers Logic Orchestra per il pezzo di apertura. Benvenuto, Silly. Grazie, Iron Man. Saluto gli ascoltatori a casa. Sei emozionato, Silly? Beh, un po'. E come non capirti, una grossa responsabilità la tua. Hai addosso gli occhi, anzi le orecchie, della nostra fetta di ascoltatori più cospicua, gli anziani. Come si dice? Ambasciatore? Ma non ti preoccupare, Silly, io e Iron Man saremo al tuo fianco. Accompagnaci a vedere, anzi sentire, quali sono le nomination. Prima nomination, Magnum P.I., la drammatica vicenda di un investigatore privato che vive alle Hawaii squattando casa e Ferrari non sue. Da notare per essere tra i primi telefilm insieme alle Charlie's Angels a far uso di personaggi che non si vedono mai. Nel suo caso è appunto il miliardario proprietario di casa, il signor Masters. Per lui, come per altri coetanei, registriamo il triste remake odierno, di fronte al quale non si può che dire «ha da tornà baffone». Per essere disertori dell'esercito hanno a disposizione una discreta quantità di armi, ma si sa che in America è più facile. Sono l'A-Team, l'ultimo tentativo dopo Iron Man e Capitan America. Ma cosa? Scusa. Di difendere l'immagine dell'indifendibile esercito. Come si fa? Come si fa? Famo che so disertori. Telefilm famoso non tanto per i piani ben riusciti, non tanto per il furgone con apertura laterale più bello del mondo, ma soprattutto per aver mostrato al mondo dei tecnici l'esistenza del nastro gaffa, detto appunto nastro americano. Raccontavo a Gamora che quando ero piccolo fingevo che David Hasselhoff fosse mio padre. E chi non lo ha pensato? Abbiamo scomodato i Guardiani della Galassia, che salutiamo, per introdurre Knight Rider, meglio conosciuto come Supercar. Una Pontiac Firebird nera dell'82, un'automobile Iron Man, con dentro installata una specie di Alexa chiamata Kit, che rispondeva a chiamata da un orologio radio. Inutile dire che il remake 2008 è un altro floppone, perché sta roba oggi te la tirano dietro. Per capire devi entrare nell'ottica anni 80, in cui una macchina che parla faceva scalpore. Oggi la macchina si fa fatica a farla stare zitta. Dopo aver svecchiato l'esercito, è tempo che anche la CIA risulti pulita come una specie di organizzazione umanitaria. Ed ecco sbucare lui, lo spettinatissimo MacGyver. La via di mezzo tra 007 e Puffo Inventore. Solito uscire d'impaccio dalle peggiori situazioni, applicando le leggi della fisica, della chimica e della termodinamica con degli spiegoni divulgativi tramite voce fuori campo che invogliavano i bambini a costruire delle bombe fatte in casa. A dispetto di quello che si dice sempre della CIA, MacGyver odia le armi. Geni. And the winner is Knight Rider. Knight Rider alias Supercar, incredibile, un bel applauso, accompagnami Silly mentre chiedo all'orchestra di intonare la sigla. Direttore, ma che è? Remix? Ottimo, facciamo vedere che siamo giovani tutto sommato. Bentornati su Radio Forte, 100 celle Avengers TV Awards. Andiamo avanti, Iron Man, con la seconda categoria in gara stasera. Perfect Family, categoria famiglia perfetta. Perfect Family, famiglia perfetta. Argomento scomodo, Iron Man, levamoselo in fretta, che è un terreno minato, ti dico. Che vuoi dire? Lo so io, ma anche amici e amiche, occasione per vivere una cronistoria dei costumi della società col passare degli anni, quantomeno nella concezione dei registi. O nella tua concezione. Smetti di fare la mia voce coscienza, per favore. D'altra parte si iscrive in uno scenario post-bellico in cui i cosiddetti liberatori ti facevano le pere per indovina dei loro modelli di vita. Happy Days, il signor Cunningham. Questo è un premio importante. Consegna il premio il più alto rappresentante delle istituzioni. Ministro per le pari opportunità. Con delega alla famiglia. Ci contestano. Ma no, gentilissimo, amatissimo pubblico. Abbiamo ritenuto doveroso. Cosa facciamo? Ma non sta. Non c'è nessuno. Eh? Il ministro ha defezionato. Oh merda. Orchestrali, dobbiamo mettere una toppa. Intonate qualcosa di accomodante, vintage, per il pubblico. Making your way in the world today takes everything. Ma che cazzo, ma che stanno facendo i rovi? Oh! Hai senduto? E poi non hanno manco messo a Mario! Ma Mario non è una delle TV! Che dici? Non mi rispondere che sono tuo fratello maggiore, ti ho creato! And andiamo con le nomination. Prima nomination per Casa Keaton e Genitori in Blue Jeans. Ma sono due candidati. Eh sì, caro Iron Man, candidati insieme come Bugo e Morgan. Bugo. È solo una delle novità di questa edizione. Dopo l'angoscia generata dalla famiglia Bradford, spettò a queste due fortunate serie il compito di rendere divertente ciò che divertente non è, la routine familiare. Con la pretesa che il mondo si identificasse in una famiglia cuore americana con la sua casa a due piani e i suoi problemoni esistenziali. In Casa Keaton l'arduo compito grava quasi interamente sulle spalle di un giovanissimo Michael J. Fox. Mentre Genitori in Blue Jeans lancia un giovanissimissimo Leonardo DiCaprio, tanto per dire quanto erano realistiche ste serie già nella scelta del cast. Essendo venuta qualche anno dopo, Genitori in Blue Jeans, come suggerisce il nome, trattava importanti questioni familiari come le parolacce a tavola o la festa del papà. In entrambe le serie domina l'irritante assunto di base secondo il quale ai genitori puoi dire tutto. Robinson contro Jefferson. Altra candidatura doppia per queste due famiglie che rappresentano la risposta afroamericana ai telefilm segregazionisti bianchi. In un paese che ha abolito la schiavitù l'altro ieri, c'era bisogno di affermare che la via della felicità non è preclusa a nessuno. Basta che tu sia un primario di medicina o almeno proprietario di una catena di lavanderie e il sogno americano è tuo. Campioni di risate finte e di stereotipi anni 80 sui neri che oggi ci farebbero accapponare la pelle. Jefferson e Robinson hanno dato il primo contributo all'integrazione secondo il metodo Michael Jackson. Si dice che essere il figlio di mezzo sia la cosa migliore. Sicuramente è il caso di Malcolm in the Middle. Si comincia davvero a parlare di neorealismo in questa famiglia descritta attraverso lo sguardo del protagonista. La patina di perbenismo scompare e questo spaccato impietoso della famiglia americana propone altri stereotipi assai più veritieri. Il primogenito in accademia militare per punizione, il secondogenito bullo di periferia, il piccolo con problemi di apprendimento, il padre trasognato, la madre stressatissima. Il tutto raccontato dalla voce di Malcolm, il fratello di mezzo, che parla rivolto al pubblico come in un'intervista. Quarto candidato, Modern Family. Serie odierna, tuttora in onda, anche qui l'espediente dell'intervista viene costantemente utilizzato per tutta la serie. Ogni personaggio parla in camera un po' come farebbe con l'analista. Oltre al figlio teppista, la sorella secchiona, la mamma alcolista e il papà idiota americano dell'anno, compaiono situazioni nuove per la TV delle famiglie e si affrontano temi come l'age shaming, l'immigrazione clandestina e le adozioni gay, con una leggerezza che sfiora il grottesco. Devi assegnare il premio. Mi tocca annunciarlo io. And the winner is Malcolm in the Middle. Un bel applauso. Sigla. Malcolm in the Middle. Yes, no. Hai sentito il ministro della cosa là? Oh, che c'hai? Ti senti Mario? Rispondimi, oh! Oh! Dottore, chiami un dottore! Bentornati su Radio Forte, Centocelle Avengers TV Awards. Che succede? Sento un brusio dal pubblico. Cosa? Un malore? Scusate signori, c'è un medico in sala? Eccomi, dov'è il malato? Allora, mi sospende il Trimagon 300 e mi prende l'Opposite Retard. Una colazione? A presto, mi faccia sapere. Ah, sì, sì, ho capito. Mi dicono dalla regia che il paziente sta bene. Ho l'onore stasera di avere come ospite Giuseppe MD. Buonasera. MD, Medical Division? No, no, musica d'insieme. Il corso della scuola di musica forte in cui suoniamo in gruppo. È un chitarrista. Anche un medico, però. Buonasera, pubblico di Centocelle Avengers. Il primo candidato è House MD. Musica d'insieme. Ah, no, Medical Division. Giuseppe, visto che sei qui con noi, approfitto per farti una domanda che mi tormenta dalla prima puntata. Ma che è sto prednisone? Sono compresse per curare le dermatiti. Nah, ma se lo davano a tutti, pure se si presentavano con la tresettite acuta che si può prendere solo se hai giocato a 3-7 con un leone albino con l'alopecia. Sì, il punto è che lo sentivi spesso perché in quella serie facevano spesso diagnosi di lupus. Eh sì, prima di chiederti il nome per la cartella clinica già dicevano che avevi il lupus. E pensa che il primo caso di lupus gli arriva quasi dopo 80 puntate. Wow! Secondo candidato, ER. Protagonista George Clooney, il sogno proibito di tutte le casalinghe degli anni 90. Tu ricordi, signò? Io preferivo il dottor Mark Green. Quello pelato? Ah, ora capisco la tua attrazione per Iron Man. ER fu il capostipite delle serie mediche. Chissà com'è iniziata. Magari uno degli sceneggiatori si ammalò per davvero e lì gli venne l'idea di scrivere una serie ambientata in ospedale. E aveva il lupus. Almeno 80 puntate dopo. Terzo candidato, Scraps. Ah, il mio preferito. Ho amato quella serie sin dall'inizio. JD, Turk, Carla, il dottor Cox, l'inserviente, Ted l'avvocato e il suo coro a cappella. Questo è il mio gruppo. Noi lavoriamo tutti in questo ospedale, ma in reparti diversi. Legale, fiscale, puliture esterne, ordini per pasta, mezza, barre, anche portineria, sicurezza, giardinaggio, servizio di lavanderia, disinfestazione, busta e paga. Scraps è anche una serie comica e, come capita spesso, sfrutta il potere della satira. Ridendo e scherzando, Scraps ha mostrato le pecche del sistema sanitario americano, la trappola delle assicurazioni, i tirocinanti malpagati che si riempono il bagagliaio di budini e carta igienica dell'ospedale per tirare avanti. Beh, come se in Italia fosse diverso. Quarto candidato, Grey's Anatomy. Ah, Grey's Anatomy, quella serie in cui i medici... No dai, non ce la faccio. Grey's Anatomy sarebbe stata identica anche se i protagonisti fossero stati dei muratori veneti. Ecco, l'ho detto. La parte medica non era realistica? Quale parte medica? L'ospedale è una scusa per far incontrare gente e farli mettere insieme tutti con tutti. In 17 stagioni non hanno mancato un incrocio. Oltretutto, la povera Shonda Rhimes a un certo punto non sapeva più come fare cliffhanger e ha cominciato a far succedere alla protagonista degli eventi così catastrofici che l'internet è esploso di prese in giro a calcolare la probabilità che ti capitino cose così assurde nella vita. Esperienze di premorte, sparatorie alla Columbine, un terremoto durante un'operazione chirurgica. Ecco, di questa è due volte più probabile frequentare un milionario, calcoli alla mano. Iron Man è un milionario. Alexa, non ti ci mettere pure tu. Direi che è ora di annunciare il vincitore. Il vincitore è Scraps. Passiamo ora la linea alla Centocelle Avengers Logic Orchestra. Out the door just in time, head down the 405, gotta meet a new bus by 8 a.m. The phone rings in our car, the wife is working hard, she she's running late tonight again. Well, I know where I've been told, you gotta work to feed the soul, but I can do this all on my own. I know I'm no Superman. I'm no Superman. You crossed the finish line, won a race but lost your mind. Wasn't worth it after all. I need you here with me, 'cause love is all we need. Just take a hold of the hand that breaks the fall. Well, I know where I've been told, you gotta break free to break the mold, but I can do this all on my own. Yeah, I can do this all on my own. I know that I'm no Superman. I'm no Superman. I'm no Superman. I'm no Superman. I'm no Superman. I'm no Superman. I'm no Superman. Bene, andiamo avanti con una categoria tutta italiana, sebbene i quattro concorrenti in gara siano tutte produzioni straniere. Ma com'è possibile? È possibile, perché parliamo della categoria dei mal tradotti. Capito Iron Man? No. Parliamo di doppiaggio, l'antica italica arte della traduzione libera. Libera di stravolgere linguaggi, doppi sensi, financo la trama del prodotto originale per adattarlo ad un pubblico, quello italiano, che non parla ancora l'inglese e che non concepisce stili di vita diversi dal proprio. E con la scusa di assecondare, venire incontro a questo gap nazionale, ci si lascia prendere la mano fino a questo punto. Che ci fate qui? Siamo degli studenti stranieri in visita dalle Sardegne. Cucco bello santo, anch'io sono sardo. Da quale città venite? Da nord, Pigurone. Sono i Simpson. Chi non li ha amati? E bisogna ammetterlo, abbiamo amato anche l'idea che il giardiniere Willy fosse davvero sardo e non scozzese come suggerirebbe il suo kilt. Capisci? No. Siamo parte del problema. Quale problema? La mala traduzione. Mala traduzione? Sì, uomo di ferro, la riforma gentile del doppiaggio. Ma di questo parliamo con l'ospite che consegnerà il premio. Abbiamo scelto un esponente del mondo del lavoro, una persona vicina alla gente, vicina a me, a casa mia. Signore e signori, è con immenso piacere che chiamo sul palco il signor Monocchio. Grazie mille a tutti, grazie. Benvenuto, signor Monocchio. Vorrei salutare la mia mamma. Benvenuto, benvenuto, signor Monocchio. Lei è qui stasera a rappresentare il mondo del lavoro. Un esponente dei lavoratori a mano. Vuole raccontarci un po' della sua attività? E sono un idraulico, un giardiniere, vetraio, tecnico del suono. Ho fatto la School of Engineering, Sound Engineering. Un bel applauso. Complimenti, signor Monocchio. Poco fa parlavamo dei Simpson. Lei sicuramente conoscerà questa fortunata serie. Qual è, ad esempio, il personaggio che preferisce? A me mi piaceva il commissario Winchester, che è delle parti mie, e erano compagni zio Peppino, Uncle Peppino. Come volevasi dimostrare, amatissimo pubblico, un bel applauso all'Italia che resiste. E andiamo col signor Monocchio a scoprire le nomination. Nomination Nomination number one, Mork e Mindy. Cominciamo con la prima fantasiosa composizione musicale, la sigla di Mork e Mindy. Ricordiamo questa serie come l'esordio di Robin Williams nei panni di un alieno sbarcato sulla Terra. Inutile dire che il suo umorismo tipico sia in realtà affidato al doppiatore, ma quello che più ci interessa è l'invenzione di una sigla che ancora oggi sopravvive nella nostra memoria, alla categoria trash. Secondo candidato, Hazard. Quindi partiamo dagli anni 80, Iron Man, per due motivi. Anzitutto capire che la prima grande operazione avviene sulla sigla. Sì, la sigla tradotta in italiano che a tutti piaceva. Con sta macchina arancione che zompa i fiumi scappando dalle guardie, ottimo inizio. Tutto ciò porta al secondo motivo, il potere di farti ignorare la reale ambientazione del telefilm. Gli stati del sud degli Stati Uniti, quelli della guerra di secessione, quelli del KKK, insomma, per dire, non c'è un afroamericano in tutta la serie, se non per fargli far criminale. D'altra parte, si scrive uno scenario post-post bellico di pieno controllo delle istituzioni da parte delle amministrazioni statunitensi, che trattavano questo paese come una delle tante zone calde in cui avevano le mani in pasta nel mondo. Ma andiamo con il terzo candidato, Willy il principe di Bel-Air. E a proposito dei afroamericani, ecco un esempio controverso. Io posso anche capire che la parlata di Will Smith, come in generale quella di tutti gli afroamericani, sia qualcosa di difficilmente traducibile, ma il motivo per cui a lui, come a tutti gli altri in Italia, viene data la voce dei Puffo Quattr'Occhi, non lo capirò mai. Hey, what's up, man? Diventa Hey, amico! Ma soprattutto, Will Smith era un rapper. Non puoi tradurre un rapper, è una cosa contro Dio, un abominio, te dico. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. She was walking in a bridal shop. La Tata, o The Nanny. Qui siamo al capolavoro. Come ti vendo in Italia una serie basata su stereotipi riguardanti gli ebrei immigrati negli States? Semplice, con una coraggiosa operazione di stravolgimento, tale che la protagonista, la Tata appunto di origine polacca ebraica, si trasforma in Francesca Cacace, babysitter italiana originaria della Ciociaria. Ti è pure l'omaggio alla Loren. Come hanno fatto a fare il resto non lo so, sono rimasto ipnotizzato anch'io, fermo a questi due elementi base, guardando il labiale e sciroppandomi la quantità di freddure inventate ad hoc, se non è arte questa. Animo, the winner is the best, bro. Willy, il principe di Bel-Air, grande. E allora, forza, musica, maestro. Ui. Ui, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta, sotto sopra si è finita, seduto su due piedi, qui con te, ti parlerò di Willy, lo sfidato di... Grazie, signor Monocchio, grandissimo, grandissimo, ma un momento, mi dicono dalla regia che dobbiamo assegnare ancora un premio speciale della critica. Come? Un premio che fa un po' da controaltare, se vogliamo, da riscatto. Parliamo di una serie italiana, ma non sarò io a parlarvene, per questa premiazione la linea va a Virgi. Dici tutto, Virgi. Grazie ragazzi. Sì, Iron Man, sono qui per spezzare una lancia a favore del vecchio stivale. Parlo della serie comica italiana per eccellenza, un capolavoro di sceneggiatura che ha mostrato, con il sapore della satira, il backstage delle produzioni televisive con le loro ombre e le loro luci smarmellate. Non capisco. Madonna! Guarda, la conosce pure Alexa. Alexa F4. Sono basita. E lo sarai ancora di più per questa versione che ci propone la Centocelle Logic Orchestra. Boris! Gli occhi del forte su Centocelle Avengers. Userai gli occhi del drone per spiare i musicanti, per capire cosa pensi, Alexa, ma sei senza sentimenti. Con i Beatles bisettimanali e disanime tozzinali. Ti dice di famina. È un po' cazzo di cane. Ma come ti permetti? Userò sono gioielliere. Prova con gli strumenti, stanno tutti molto attenti. Rieccoci, amatissimo, gentilissimo pubblico su Radio Forte con i CATA. Scopriamo di corsa la prossima categoria, Iron Man. La vuoi dire tu? Categoria? Antichi zozzoni. Entriamo nel magico mondo della storia e delle serie TV a ricostruzione storica. Perché abbiamo scelto questo nome Iron Man? Già, perché? Perché c'è un motivo se si sono moltiplicate a dismisura. Tutto questo interesse per la storia non te puzza, Iron Man? Non capisco. Tutti Barbero, mo. C'è qualcosa che accomuna tutte le serie in gara stasera. Una visione, un'intuizione. Quale? Quella di metterci sì la superviolenza neorealista, ma anche e soprattutto il sesso. Cosa? Sì, lascivi, costumi orgiastici di qualsiasi epoca. Tranne la nostra, ovviamente. Eh sì, sta lì il trucco. Con quel distacco dello storico, serio, vale tutto. Ma meglio di me ce lo spiegherà l'ospite chiamato a premiare questa importante categoria. Il primo produttore ad aver creduto in questa intuizione geniale. Per amore della cultura, è un onore presentare il signor Francis J. Mayer della Metro-Goldwyn-Mayer. Un applauso! Grazie, grazie, grazie. Allora grazie, grazie, veramente, grazie. Ehi, ehi! Benvenuto, signor Mayer, è un Thank onore. Thank you, it's pleasure. Lei è qui stasera a premiare una categoria che ha praticamente inventato. Sono tutti figli suoi. Modestamente sì, si può dire così. Ci racconti un po' come le è venuta questa idea di divulgazione storica. Ma pensi, è stata mia figlia, sa. Lei studia alla Dan Brown nel Massachusetts. Dan Brown, eh? Mm. E una volta, tornando da lezione, che lei è molto studiosa... Ah, che bello! Mi disse... Ah papà, certo che pure gli antichi romani si facevano certi sì, trenini. Complimenti, noto solo adesso che lei parla un perfetto italiano. Bene, quindi è così che nasce Rome, il capolavoro che ha dato l'inizio al filone. Noi c'avevamo Ben-Hur, che con tutta la pazienza era un po' obsoleto. Ci siamo detti, oggi il mondo è diverso. Certe cose si possono e si devono dire, per amore della... della storia. Della storia, della storia, certo. A far vedere solo la violenza non bastava. Poi lì Mel Gibson ci aveva rovinato il mercato, con sti lungometraggi, te mazzate storiche, lingue originali. Nah. La gente vuole sapere di più e noi ci mettiamo al servizio della cultura. Noi diamo quelli in più. Grazie, grazie, grazie, grazie ancora grazie. Grazie signor Mayer e andiamo con le nomination. Cominciamo con Vikings. Quale migliore ambientazione per gli antichi zozzoni di un mondo leggendario popolato solo da biondoni? Tiè, pura rima. Il casting in California è un attimo e la mitologia nordica legittima qualsiasi rituale. Tra le influenze avute da questa serie sulla società, citiamo l'umorismo dell'IKEA, nota azienda svedese, di chiamare una sedia Ivar, il senza ossa, personaggio privo dell'uso delle gambe. L'umorismo scandinavo, tanti suicidi. Per arrivare al cuore della storia, devi tornare alla sua origine. Famiglie di zozzoni unite. Altra candidatura collettiva. I Tudors, i Borgia, i Medici. Bersagli facili per gli sceneggiatori. Tra le famiglie reali inglesi e famiglie di papi basta aprire un libro di storia e la sceneggiatura è fatta. Mettici pure la reinterpretazione all'americana e abbiamo di nuovo la categoria famiglia perfetta nella storia. Rome. Come abbiamo detto, è la serie che ha iniziato tutto il filone zozzoni di un periodo antico. Come ricostruzione si fanno dei grossi passi avanti. Poco importa quindi se il protagonista è anche un medico di Grey's Anatomy. se scambiamo Catone il censore con Catone Luticenze. Mo stai a guardar Catone, già tanto che non abbiamo sbagliato secolo. Infine, 1992. Un grosso salto, lo so, ma seguimi. Dal momento che gli antichi si risoppresi tutti gli americani che, pare ne sappiano le storie, agli italiani, che di antichità erano pure pieni, cosa rimaneva per fare un po' di fiction memoria storica col sesto di mezzo? La banda della Maiana? Nah, troppo pulp, poi so fasci. Tangentopoli, l'ascesa dei Berlusconi, è tutto scritto lì. Queste sono storie interessanti. Manco 20 anni sono passati e già li analizziamo con l'occhio imparziale della storia, come se fossero altro da noi. Capito che geni? And the winner is... questi l'ho cresciuti io. 1992. 1992, un bel applauso alla corruzione della nostra giuria. Buonasera, buonasera. Alex è qui con noi per aiutarmi a presentare questa categoria in gara stasera. Per la categoria horror, la prima nomination, American Horror Story, con la magistrale interpretazione di Lady Gaga. Non le senti? Cosa? Le risate, siamo nella categoria sitcom. Ecco, lo sapevo che finiva così. È la prima volta che conduco. Allora, signore Sigminuti! Oh Gesù, fai sul serio? E su, era una battuta, come quella che mette Batman prima di fare sport. Sì, la smetto. Questa è la categoria sitcom. Alexa, lo sapevi che la sitcom nasce proprio per la radio? Solo dopo viene rappresentata sul piccolo schermo. È caratterizzata dall'uso di una singola ambientazione, per esempio una casa, un appartamento o la redazione di una radio. Per farla breve, parliamo delle serie comiche, che saranno annunciate dalla nostra Viola, cantante, chitarrista e grande fan di Phoebe. La scena è tua, Violetta! Smallica, smallica, what I've been feeling you. Smallica, smallica, it's not your fault. They won't take you to the vet. You're obviously not their favorite pet. Smallica, smallica, what hard I'm feeling you. Smallica, smallica, it's not your fault. It's no be a bed of roses, and you're no friend those with noses. Smallica, smallica, what hard I'm feeling you. Smallica, smallica, it's no your Grazie, grazie. E buonasera signore e signori. È con piacere che vi do il benvenuto a questa bellissima puntata. Viola, qual è il nostro primo candidato? La prima nomination è My Name is Earl. Ah, me la ricordo. Earl vince la lotteria. Mentre esulta, viene investito da una macchina e perde il biglietto vincente. In ospedale comincia a riflettere sul karma. Karma, la legge secondo cui l'agire coinvolge gli esseri senzienti vincolandoli alle conseguenze morali che ne derivano e quindi al samsara, il ciclo delle rinascite. Sì, brava Alexa, prendi il biscottino, tiè. Ma prendendola un po' più spicciola, come ci piace a noi, è il principio per cui per ogni azione compiuta ne torna indietro una dello stesso tipo. Earl stila una lista delle sue cattivazioni e comincia a rimediare ad esse, una per ogni episodio. Se desidero una vita migliore, devo essere una persona migliore. Ho messo su una lista tutte le mie peggiori azioni. Sono stato castigato perché non mi meritavo tutta quella fortuna. La serie è comica fino al midollo, con personaggi quasi paradossali come Gamberone e la sua tartaruga Gamberuga. Ehi là, Gamberone! Ehi, Gamberuga! Bella. Ma allo stesso tempo mostra tutto lo sforzo del protagonista nell'intraprendere il suo percorso di crescita, da una vita di fancazzismo a un profondo miglioramento personale. Come Pinocchio. Brava! Ammazza, stai sul pezzo oggi, eh? Secondo candidato, The Big Bang Theory. Anche qui, mentre segui le vicende spassose di quattro amici, tra mille battute, ti viene descritto il mondo nerd, o geek, fa un po' te. Che poi, la cosa strana è che viene guardato da gente capace di confondere Star Trek con Star Wars. Come diceva Zero Calcare, è come se il Ku Klux Klan guardasse i Robinson. Lasciamo stava. Comunque, The Big Bang Theory è un manifesto dell'orgoglio delle proprie passioni e dell'importanza di essere se stessi. Terzo candidato, How I Met Your Mother. Ma tu lo conosci, Ted? Barney permettendo, una delle cose che ricordo con più piacere di questa serie è la più bella descrizione dell'amore mai scritta, a parere mio, eh? Me lo ricordo anche io. Parli del Lebenlager Schicksalsschatz? Ci stanno bene i krauti come contorno? Tutto te devo spiegare. C'è una parola in tedesco. Lebenslager Schicksalsschatz. E la traduzione più vicina sarebbe il regalo del destino di una vita. E per finire in bellezza, quarto candidato, Friends. Serie sempre attuale, potrebbe sembrare del 2021, anche se degli anni 90. Tante altre serie hanno preso spunto da Friends e chiunque l'abbia vista si è immedesimato nei personaggi. Chi non si è sentito almeno una volta nella vita come Joey Tribbiani, che prova e riprova a realizzare i suoi sogni e anche se sembra uno scappato di casa, vive bene nel suo mondo ideale. Rachel Green è la classica figlia di papà, che all'improvviso decide di lasciare la sua comfort zone e, anche se molto insicura, inizia a vivere la vita con tutte le difficoltà che ha. Non voglio dilungarmi troppo, ma non posso non nominare lei, la regina indiscussa, senza la quale questa serie non sarebbe stata la stessa. Phoebe Buffay, con quella sua innocenza mista a cazzimme e spiritualità. Vorrei ricordarla così. Fantastico! Io da piccola avevo un barile. Avevi un barile come casa delle bambole? No, avevo solo un barile. E per la categoria sitcom, the winner is Friends! Vi lasciamo con i nostri Friends personali, la scuola di musica forte! Grazie, grazie. Quale onore calcare questo palco e potervi così annunciare la prossima categoria in concorso. Ci si vede in tribunale. Ci si vede là davvero, eh? Questa è la categoria mia. Scusate, gentile pubblico, ma pare che qualcuno abbia chiaramente tentato un sabotaggio ai miei danni. Ma, cara, cosa dici? Vediamo se la regia può aiutarci a risolvere questo piccolo disguido. Che sta a fare con la mano sull'orecchio? Non ce l'hai l'auricolare. Se ce l'ho io vuol dire che posso condurre io. Ma poi, mi hai chiusa in macchina per non farmi venire a presentare. Ti prego, non farmi andar via! Davvero, credevo tu fossi già uscita. Avevamo una gomma a terra, una macchina di noi aveva preso fuoco. Dicevano che eri senza voce. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette! Non è stata colpa mia! Voglio un avvocato! Grazie, grazie, grazie a tutti. Grazie mille, grazie, grazie, non dovevo. Ci uniamo a questo sentito benvenuto. Non è solo la nostra ospite speciale, non è solo la nostra chitarrista speciale, ma a quanto pare anche il tuo avvocato, Gabri. Vi ringrazio, quale calore. Non sapete quanto piacere mi faccia stare qui con voi. Sono molto emozionata. Fa caldo. Gabri, ti prego, aiutami! Su, su, Silly, un po' di contegno. Prendi il microfono e fai il bravo, eh? Ah-ha! L'ospite è sacro! Yeah. Vai con le nominations! Iniziamo con la prima nomination. Le regole del delitto perfetto, anche detto How to Get Away with Murder. Eh? Capolavoro del cliffhangering o arte del tenerti appeso. Da una semplice multa a portonaccio si arriva all'omicidio plurimo attraverso una trama fatta di inverosimili intrighi, capovolgimenti all'insegna dell'obiezione, vostro onore, e del vale tutto. Se vai un attimo in bagno senza mettere in pausa e ti perdi pochi frames, ti tocca rivedere 5 puntate. Mamma mia, cominciamo bene, che poi non si dice obiezione, vostro onore. Law and Order, serie imprecisa, che tratta male i due volti della giustizia statunitense. È un prodotto talmente longevo che fonti certe dicono che l'attrice Mariska Hargitay fosse una bimba prodigio di 9 anni quando iniziò ad interpretare il detective dell'omicidio Olivia Benson. Miracoli del make-up di Hollywood. Ma dove hai detto sta cosa? The Good Wife, fantastico romanzo di formazione che tratta le vicende di una donna pubblicamente umiliata dal marito che cerca in tutti i modi di riprendere la propria dignità dedicando la sua vita al lavoro in uno studio legale. Avvincente, soprattutto per le quantità di personaggi televisivi che se state in fissa con le serie ne beccate uno a puntata. Nessuna obiezione, vostro onore. Ah, mo se può dire. Ellie McBeal. Di facciata, Ellie McBeal è una serie su uno studio legale pieno di personaggi nevrotici e un po' dissociati. Nella realtà, descrive una lunga catena di biechi tentativi della protagonista di arrivare al cuore del nostro Iron Man. Qua sento puzza di brogli. Passiamo dunque alla premiazione. And the winner is... Ellie McBeal. Ma è incredibile. Ha senso, ecco, ha senso. Lo sapevo, c'è stata una raccomandazione. Mi sentirete? Grazie, ragazzi. Portatela via. Una lettera sotto la porta. Siamo lieti di invitarla alla speciale notte dei 100 celle Avengers TV Awards. Ci piacerebbe tenesse in considerazione il ruolo di annunciatore per la premiazione della categoria più attesa, quella delle serie. È gradito l'abito scuro. È gradito l'abito scuro. Ma non stavano a fare la radio quelli? Iron Man. Luigi, Mio caro Iron Man, non vedo l'ora di scoprire cosa ha in serbo per noi quest'ultima fase della premiazione. Sono in trepidante attesa, Virgi. Vi presentiamo le serie. Come saprai, Iron Man, questa è la categoria che include tutte quelle serie viste da chi davvero ci tiene. Io ci tengo molto. No, Iron Man, io te conosco, con una mamma per amica a te sei un pivello. Non sono un pivello. Io parlo di quelli che ci buttano il sudore e il sangue sulle serie, di chi ci si coltiva le occhiaie a forza di guardarle. Queste persone non possono esistere. Mio caro Iron Man, esistono e come? E qui, ad annunciare il vincitore assoluto di questa serata, abbiamo uno dei loro massimi esponenti. Signore e signori, The Binge Watcher, Francesco. Vi ringrazio. Troppo buoni. Benvenuto, Francescone. Ragazzi, ho un solo dubbio. Ma siete voi che vi siete intufolati in casa mia per lasciarmi un biglietto sotto la porta del cesso? Mistero! Il mistero, il dubbio, l'inganno, le trame complicate sono gli elementi portanti di questa categoria. Ma di una cosa possiamo essere certi: nessuno dei nostri protagonisti è al sicuro. Nominations. Prima nomination per Breaking Bad. A molti sarà sembrato un sogno ritrovare finalmente il tanto amato papà di Malcolm, e chi puntava a ritrovare quel modello di comportamento che era Hal avrà potuto assistere ancor più volentieri all'evoluzione di Walter White, marito, padre e figura paterna senza eguali. Cosa non ha fatto per aiutare la sua famiglia? Lost. Allora, c'è un aereo che casca su un'isola, ma sopravvivono praticamente tutti. E a un certo punto spunta fuori un fumo nero tra gli alberi, che in pratica sarebbe... Allarme spoiler! Ma che? Allarme è una tutela spoiler contro i linciaggi. Oh! Ah, beh, capisco. Allora, niente. E dopo un po' trovano una botola dove dentro c'era... Allarme spoiler! Vabbè, dai, come non detto, regà. Terza nomination per Game of Thrones. Siamo qui riuniti per celebrare uno dei più grandi personaggi della storia delle serie TV. Il nostro caro, vecchio Aquaman, che qui fece una delle sue più importanti apparizioni nei panni del raffinatissimo Khal Drogo. Attorno alla sua figura ruota tutta una serie di personaggi minori che... Va bene, non è vero che era il protagonista. Le storie sono le vere protagoniste di questa intricata serie fantasy, quasi tutte perfettamente connesse le une con le altre a formare una mappatura perfetta di un tempo e di un luogo che non sono mai esistiti. La stai buttando in caciara? Sì, chiedo scusa. Dexter. E come ultima nomination abbiamo le vicende del più grande giustiziere mai inscenato. Però che finale de merda. Allarme spoiler. Ma nemmeno questo allarme posso dire spoiler. Ed eccoci al momento clou. Per la categoria serie, the winner is... Roberto! Roberto. Ma che sei diventato Sofia Loren, francese? Leggi sta busta, dai. No, regà, io non ce la faccio. Non posso permettere che ne vinca una sola. Tutte quelle ore spese a faticare per rimanere seduto il più possibile sul divano. Dai, fra, dammi la busta, lo leggo io. Mai! Molla la busta. Bene, finisce anche questa puntatona di 100 Celle Avengers. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a... Boh. Se continuiamo a fare ste puntate così, non lo so, diventiamo mensili Iron Man. Tu che dici? Questa, come le altre puntate, la trovate in podcast sul sito fortepenestino.net/radio. Alla prossima!